guarda, che stuccia radio, la senti si e si sciurra l'ange, lo profumo a così fino, di toccare fedela. E tu dici, o pare d'avvio, parlate la spasere

venuta, poi è tornata, poi è venuta, sta sempre qua. La capa vuota vuota attorno attorno, attorno a te. Lo cuore canta sempre del tuo reno, scusa mai me. Yamma, yamma, coppa yamma, yamma, yamma, coppa yamma, puli, puli, puli, puli, puli, puli, puli, puli. Sopra la rete le curò

già con le rose sue dita, carezza le fiori lo stuore, commosso da un fremito arcano, intorno il creato già par, e tu non ti desti ed in vano, visto qui dovente a metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo canatore, non sei la luce manca ora tu sei la

end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course, each curve and step along the byway, and more, much, much more. I did it, I did it my way. Yeah, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it all. se il vento lieve d'accarezza un profumar di giovinezza mi fa tremare la rovio sogno tremando di te per la